Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al libro di Tenera Amata. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti, ecco, ormai 2 settimane fa, a causa del mio ritiro di esercizi spirituali. Facciamo un piccolo ambientamento prima di riprendere la lettura. Abbiamo concluso la volta scorsa abbiamo visto alcune caratteristiche belle che riguardano la vitalità della terra e che sono anticipate da alcune esperienze terrene, no? Abbiamo parlato del saluto di mano, della stretta di mano, no? Che è una pre-manifestazione del piacevole saluto celeste. E abbiamo anche visto qualcosa su quello che vivono gli animali domestici, che non possono aspirare evidentemente alla gloria e alla visione beatifica perché non hanno l'anima spirituale, quindi non si può dire che gli animali vanno in paradiso come ci andremo noi, ma che nel paradiso ci sono gli animali e saremo noi a far godere, perché loro possono soltanto, come adesso, godono la nostra compagnia, la nostra presenza, così potranno godere la nostra compagnia però di anime beate, nello spazio, negli spazi-tempi che hanno caratterizzato la loro vita terrena e che semplicemente sono e stanno e che permangono, come dovremmo aver ormai imparato, se non abbiamo imparato questo, fino a questo momento siamo messi malino. Permangono vivi intatti nella quinta dimensione. Sappiamo bene che tutto quello che accade semplicemente è, quindi non è che una volta accaduto scompare e viene relegato in un passato che non torna più. È unica eccezione a tutto questo è il non essere, che filosoficamente questo è il male è privazione di essere, quindi il peccato, che come sappiamo è come se non ci fosse, quindi viene completamente cancellato. Ecco, e quindi un motivo in più, sto facendo un po' un riassunto di tante puntate per fare attenzione di vivere in grazia, ecco, dato che è iniziata la Quaresima, ribadire questo concetto non è mai inopportuno. Ecco, detto questo, riprendiamo la lettura. Da dove ci siamo fermati? Qui nella mia versione digitale del libro siamo nel capitolo 25 e libro digitale, pagina la parola 78. Riprendo la lettura. Ci sono dei saggi, sta parlando Riccardo, che affermano che non esiste l'anima umana spirituale libera ed immortale. Dicono che quando nostro Signore Gesù Cristo parla dell'anima umana, intende dire il centro o nucleo vitale dell'uomo, non la sua sostanza spirituale. Sentite che bella risposta a questi intelligentoni, professoroni che girano adesso. E allora stiano attenti alle affermazioni che propalano. Non succeda che per le loro idee avventatissime raggiungano in cielo appena la felicità propria degli animali. Se mi posso permettere una glossa, ammesso che in cielo ci vadano, chi dice queste stupidaggini, no? Io ti insisto che accetti la sacra scrittura e la tradizione apostolica nel loro semplice linguaggio, senza storture né raggiri, d'accordo con il magistero ufficiale della Chiesa. La parola divina non è stata dettata per i sapienti orgogliosi, ma per gli umili di cuore. Obbligatorio il primo pit stop, perché queste parole che sta dicendo Tenera Amata sembrano di un'attualità assolutamente sconcertante. Ecco, quelli che si credono sapienti, si legge nel Nuovo Testamento, è San Paolo. Se qualcuno si crede sapiente in questo mondo, dice San Paolo, vedrà di farsi stolto, perché Dio ha già dimostrato stolta la sapienza di questo mondo. Quindi, quando una cosa è divinamente rivelata, sta dicendo che c'è Sacra Scrittura, tradizione e magistero che sono d'accordo, il discorso è semplicemente chiuso. Chiuso. Ed è doveroso chinare la testa ed accoglierlo, anche se non si capisce bene, non si comprende perfettamente. Perché, come dice subito dopo, proseguo la lettura, è sempre tenera amata che parla. Non ti preoccupare per le apparenti differenze tra la rivelazione e la scienza terrena, apparenti differenze, attenzione, apparenti. Apparenti significa che non sono mai reali, come basta rileggere un bel documento di Giovanni Paolo II, che era lo Fides et Ratio. Non ci può essere nessuna contraddizione tra la vera scienza e la vera fede. Perché quando sembra apparire una contraddizione, non dimentichetelo mai questo qui, o la scienza non è scienza. Oggi come oggi siamo all'80% dei casi, secondo me, mia opinione personale, oppure c'è una distorsione, una malcomprensione di una verità di fede. Ma se c'è la fede vera e la scienza vera, non possono entrare in contraddizione. Non possono. E lo spiega perché. Perché quando la scienza è vera, quindi ha delle conoscenze certe di cose oggettive, tutto quello che è, tutte quante le leggi impressionanti, cioè le leggi della fisica, le leggi della chimica, le leggi della biologia, le leggi dell'atmosfera, le leggi dell'astrofisica, le leggi della matematica, le leggi della geometria, possiamo sta parlare fino al giorno del giudizio. Il povero scibile umano, che poi non è niente in confronto alla sapienza con S maiuscola, chi è che ha creato tutto e ha posto queste leggi? È lo stesso che l'autore della fede, lo stesso. Non è che sono due entità diverse. E quindi la somma sapienza e la somma intelligenza può contraddirsi? Stiamo scherzando, di qualche razza di idee ci vengono per la testolina che ci abbiamo, no? Quindi non ti preoccupare per le apparenti differenze tra la rivelazione e la scienza terrena. Forse il creatore è schiavo delle scienze che lui stesso ha creato. La sua parola domanda fede e non tanto dimostrazione oggettiva ed evidente, e nemmeno corrispondenza esatta con le, tra virgolette, meravigliose scoperte moderne. Continua a leggere. Il nostro prevale, la scienza umana, attenzione bene, sta parlando con uno scienziato, Riccardo non era Pinco Pallino, era un astrofisico. La scienza umana tante volte sbaglia, cambia e viene meno. Ha studiato un po' anche di questa roba, lo sa bene. Un giorno constaterai quanto diverse si vedono le cose terrene viste dal cielo, dall'alto in basso, anziché dal basso verso l'alto, come avviene qui. Io non vorrei complicare troppo la faccenda, no? Ma ci sono stati dei fiori pensatori, alcuni geniali all'inizio del secolo scorso, che hanno dimostrato, a fronte di tutti quanti gli scientisti, razionalisti e quelli che si sciacquano la bocca, che adesso non fanno ancora di più con la scienza, con la S maiuscola e l'H finale, che ogni sapere scientifico non può essere mai autoreferenziale e quindi è sempre relativo. Basta andare a vedere per chi insomma c'è la capacità di farlo, insomma, non mi dipongo troppo perché diventa troppo difficile, studiarsi quello che ha scritto e che ha detto Kurt Gödel. Quando, inventandosi la geometria dello spazio cubo, ha relativizzato la geometria euclidea che nessuno pensava si potesse relativizzare nei suoi postulati. Dette in due parole, se tu applichi i principi della geometria euclidea nello spazio cubo, non funziona manco uno, perché la geometria euclidea funziona nello spazio piano, non nello spazio cubo. E quindi un gota, d'accordo, dice, ma che la geometria non è una scienza esatta e incontrovertibile? Certo che lo è, ma non è assoluta, non è assolutamente incontrovertibile. È incontrovertibile dentro il suo campo proprio di azione. Lì sì. Vabbè, chiudo la parentesi, sono diventato troppo complicato. Non comprendo perché è così bello il saluto celeste della stretta di mano, dice Riccardo. Ne abbiamo parlato verso il termine della puntata precedente. Risposta. L'immenso piacere della più piccola compenetrazione amorosa nella beatitudine è dovuta alla condivisione reciproca, attenzione, fra i glorificati, dei doni divini personali e irripetibili che Dio ha concesso ad ogni beato d'accordo col suo nome nuovo e con la dote di manna segreta. Libro dell'Apocalisse, al vincitore darò la manna nascosta e un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questa sacra scrittura non è tenera amata, eh? Cioè con la sfumatura singolare di felicità che gode ciascuno nella patria, equivale ad una reciproca trasfusione di gloria e di gioia. Consente un'indicibile intercomunicazione di felicità molto superiore alle brevi, limitate e superficiali carezze di quelli che si amano in questa vita. Allora, amici, qui mi fermo ancora, no? Questo, rallegriamoci. Ognuno di noi, perché se è vero tra i glorificati, è vero anche prima di essere glorificati, noi siamo graziati, come si dice, no? Quindi abbiamo ricevuto il dono della grazia. Prima siamo graziati e poi glorificati, ma prima ancora che graziati siamo creati. Siamo creati, graziati e glorificati, cioè l'ordine della natura, l'ordine della grazia e l'ordine della gloria, come si insegna in teologia. Allora, il nome nuovo, la dote, scusate, i doni divini personali e irripetibili, appartengono all'ordine della natura e della grazia. Personali, cioè. Parlo in prima persona, ma parlo in prima persona, ognuno di voi può prendere la mia prima persona, cioè quello che ho io, quello che sono io, quello che ho io da un punto di vista di dotazione, di doni miei, personali, e non ce l'ha mai nessun altro, non ce l'ha nessun altro. Il mio nome nuovo è il mio, la manna segreta nascosta che godrò io è la mia, è la tua, è il tuo. Non ce l'avrà nessun altro. Allora, che succede? Se due beati si stringono la mano e si compenetrano, è chiaro che esplode un godimento ineffabile, perché nessuno può darti quel particolare piacere che ti darà quel singolo beato. Anche se stesse a un grado di gloria minimo, perché ha comunque delle caratteristiche che ha soltanto lui. Ok? Noi qui, se vogliamo bene a qualcuno, proviamo un grande diletto nel contatto, anche se sappiamo che qui il contatto, specialmente fuori di certi ambiti, dopo torneremo su questo, dove purtroppo ha dovuto incanalarci il nostro Signore a causa dello stato di intenzione in cui stiamo, è sempre molto molto aleatorio, chiamiamolo così, no? Però procura evidentemente un certo diletto, no? Anche grande. Gli animali, quando ricevono le carezze, pongono, almeno gli animali domestici più comuni, cani, gatti, salvo che non capita qualche gatto forastico, non si può toccare, però generalmente godono ed esprimono anche il loro godimento. No? I cani, io ce ne ho avuti tanti, fanno la faccia languida e abbassano le orecchie, ridono gli occhi, no? Ecco, scodinzolano, quindi fanno un sacco di cose. I gatti fanno le fuse. Per farci capire, fammela ancora che mi stai facendo tanto godere. Ecco. Gli umani, diciamo che sorridono, quindi mostrano attraverso lo sguardo, attraverso l'atteggiamento, come dire, la gradevolezza che avvertono dinanzi a certe cose, no? A certe manifestazioni di amore, di affetto, qual è il contatto bello che può essere una carezza, no? E dice Riccardo: immagino il felicissimo abbraccio delle coppie nei balli del cielo, perché la volta scorsa penso ci saremmo ricordati che si è parlato di balli celesti nei vulcani in mezzo alla lava o in qualche altro viaggio interstellare. Sapete, quando si comincia a viaggiare a dei buoni livelli. Rispetto alla volta scorsa, posso darvi un'informazione in più, amici, che capite che anche viaggiare alla velocità della luce, credo che le anime che nell'altro mondo dovremmo viaggiare un pochino più velocemente, perché ho visto un bellissimo documentario dove praticamente mi sono stati dati dei numeri che ricordavo in maniera vaga. Cioè, noi siamo nella galassia che si chiama Via Lattea. Per percorrere la Via Lattea da un estremo all'altro con un'astronave che supponiamo fosse capace di viaggiare alla velocità della luce, cosa che non esiste proprio, non esisterà mai, secondo me, 300.000 km al secondo, se supponiamo proprio, ci vorrebbero soltanto 110.000 anni. Ci rendiamo conto? Quindi se tu viaggiassi alla velocità della luce, anche dopo che sei morto, ci metti 110.000 anni per andare fuori dalla galassia della Via Lattea. E attenzione che di galassie parlano di migliaia di miliardi di galassie esistenti. Il numero che ho sentito in quel documentario è 5.000 miliardi. Cioè, capite che significa 5.000 miliardi di galassie quando una, la nostra, che conosciamo, ha questa proporzione gigantesca? Chiusa parentesi, eh? I balli del cielo. I sensi corporali, risponde Tenerata, dopo essere purificati, funzionano intensamente. Senza deficienze né debolezze, questo basta che uno apre la Summa Teologia. Era vero anche per l'umanità perfettissima, anche in questo mondo, di Gesù e di Maria. Il tatto si esercita oltre che nella pelle, attenzione, in tutte le cellule dell'organismo integrale, tutte le cellule, non soltanto la pelle, perché se quando tu ti interpenetri. Cioè, noi in questo mondo conosciamo soltanto il contatto da pelle a pelle, l'ha spiegato la volta scorsa, che se noi ci potessimo come dire, compenetrare adesso, che te compenetri? Se ti si infila un coltello dentro il dito, ti fa male, non le provi di letto. Ma nell'altra dimensione, se ti si infila un coltello nella mano, tu non provi sofferenza, ma provi il diletto del contatto con gli atomi della lama. Ok, quindi le cellule noi qui possiamo conoscere, sono sensibili, diciamo così, alla gradevolezza, al piacere, solo le cellule del tatto, della pelle, meglio, non quelle dell'organismo integrale, le quali godono e comunicano i loro piaceri all'anima che le governa. L'acutezza tattile non si limita a sentire il caldo e il freddo nella forma e la consistenza dei corpi. Diventa enormemente versatile, sentite bene, fino a percepire differenziatamente una molecola diversa da un'altra. Capite? Cioè, la raffinatezza. E se raggiungi un alto grado di gloria, un atomo, un elettrone o un quantum di infraenergia. Capito? Cioè, il contatto con un elettrone è la parte in assoluto più piccola della materia, perché l'elettrone è la parte più piccola del nucleo di un atomo, non del nucleo di un atomo, il nucleo sono i protoni e i neutroni, è la parte più piccola dell'atomo, quello che gira intorno al nucleo, che è molto più piccolo, cioè, che ha capito che cioè, il mio tatto, anche interno, è capace di godere la gradevolezza che il singolo elettrone trasmette. Addirittura i quantum di infraenergia. Che non me li ricordo bene, perché dovrei andare a ripassare qualcosa, ma siamo ancora a un livello ulteriore. E siccome ogni elemento singolo, sentite, è capace di comunicare per amore universale il dono specifico ricevuto dall'Altissimo, attenzione, ogni elemento specifico, cioè devo spiegare cosa sta dicendo. Sapete, allora, altro documentario, perché adesso il Signore, siccome sto facendo la mi sta mettendo davanti. Sapete quanti neuroni ci sono nel cervello? 100 miliardi di neuroni sono nel cervello. 100 miliardi. Quanti atomi ci stanno dentro ogni neurone? E quanti elettroni stanno dentro ogni neurone? Solo i neuroni, voi immaginate quanti atomi ci sono dentro il nostro organismo? O quante cellule? Non si sa. Ogni singolo elemento, capito, è capace di comunicare per amore universale il dono specifico ricevuto dall'Altissimo. Quando uno va a vedere, vedete questi documentari, i neuroni sono uno spettacolo, i globuli bianchi sono uno spettacolo. I globuli rossi sono uno spettacolo, sono cellule specializzate, ognuno fa quello che deve fare, quindi ha, come dire, la sua caratteristica specifica, ha il suo dono specifico, ricevuto dall'Altissimo, fatte l'Altissimo queste cose, non sono fatte da sole. E quando questa cosa viene inserita nell'orizzonte dell'amore universale, la quiddittas, quindi. Che poi che cosa diciamo per chi conosce la divina volontà? Il ti amo che veicola quella sostanza, quella particella di materia, diventa percepibile e tu lo senti. Attento, non soltanto il ti amo di un globulo bianco, ma il ti amo di ogni singolo elettrone, di ogni singolo atomo di cui il globulo bianco è composto. Non soltanto, capite? Allora, per questo che ho spiegato, dice, siccome ogni elemento singolo è capace di comunicare per amore universale, il dono specifico ricevuto dall'Altissimo, il dono specifico nel linguaggio della Divina Volontà, lo chiamiamo il ti amo. Ti lascio immaginare l'immensa felicità che procura il tatto nella patria. Lo stesso potrei dire degli altri sensi corporali. La vista, l'udito, l'orato e il gusto. Il gusto abbiamo già visto qualcosa con i liquori celesti, con la pallottina fatta con il cellophane, puntate precedenti, no? Riccardo risponde: è da vertigine pensare a tanti piaceri. Capito quello che ci aspetta? Questo perché qualcuno va, adesso per esempio stiamo in Quaresima, no? Ah, la Quaresima, il cristianesimo, sempre con queste croci, sempre con le mortificazioni, i digiuni, le penitenze, bisogna soffrire. È chiaro che in questo mondo c'è la dimensione della croce, per carità, nostro Signore l'ha detto chiaramente, ma non finisce qui. La Quaresima finisce a Pasqua. Dopo Pasqua restano 50 giorni di gioia, che sono figura, cioè mentre la Quaresima è figura della vita terrena, perché qui stiamo in stato di interdizione, non dimentichiamolo mai, a causa del maledetto peccato. Quindi tutte queste cose qui non si possono vivere in questo mondo. Ma nell'altro sì, però per vivere nell'altro mondo tu qui devi abbracciare la croce. Anche la croce della vita cristiana, anche la croce dell'esercizio delle virtù. Quante volte quando Riccardo dice: "Oh, io voglio morire, che sta buono", tu pensa diventa santo, che poi godrai queste cose. Quanto più santo diventi, tanto più le godrai. In ogni caso, da vertigine è vero, il nostro Dio è generosissimo. Il libro di Tenera Amata, così come gli scritti del libro di Cielo, a mio avviso, di Luisa Piccarretta, rivoluzionano l'idea di Dio che noi abbiamo. E anche se non viene evidentemente chiunque predicasse un Vangelo senza croce, mandatelo da dove è venuto, okay? Senza proprio aprirgli il minimo, ma la croce in questa vita è un atto d'amore. È una cosa che è necessaria, il Signore non l'avrebbe voluta di per sé, ma è diventata necessaria. E quindi proprio perché ci vuole bene, perché ci vuole ricompensare intanto alla grande, il nostro Signore ce le manda le croci, ma non dobbiamo fermarci a quelle. Dio è generosissimo, ricorda che non esistono due persone esattamente uguali. Il Creatore non si ripete nelle sue opere. La cosa grande è non ripetersi mai. Ma provate a pensare a una cosa, no? Divertitevi un po'. Divertitevi. Le mani degli esseri umani sono tutte uguali? Sì, no? Bene. Sono tutte uguali. C'hanno cinque dita, c'hanno il palmo, c'hanno il dorso, c'hanno, va bene? C'hanno le unghie, c'hanno le falangi, d'accordo? C'hanno i metatarti. Sì, i metacarpi, i metatarsi stanno nei piedi. Allora, guardate se siete capaci di trovare due mani uguali. Cioè, prendete, mettete 500 persone, fategli tendere la mano, sono tutte mani, ma non sono uguali. E tra l'altro, diciamo, questa si assomiglia proprio tantissimo, ma le impronte digitali non sono uguali. Sapete che le impronte digitali. Quante cose attestano il nostro essere unici e ripetibili? Per esempio, le impronte digitali. Per esempio, il DNA. Adesso dico la prima cosa che mi vengono in mente, ma sarà una caterva. D'accordo? Il DNA mio è il mio, eh. L'impronta digitale mia è la mia, ce l'ha nessuno. Un altro tratto caratteristico è la voce, tutti parlano, no? Ma vi rendete conto, nostro Signore, che è fantastico? Come caspita fa? Ah, cioè, immaginate quanti esseri umani che creerà, insomma, fino alla fine del mondo. Tanti, mo adesso siamo 7-8 miliardi in giro. E se non ci sta uno che ce la voce uguale a quell'altro. Dobbiamo pensarci ogni tanto a queste cose. La voce è una di quelle cose che ti fa proprio. Tu senti la voce e zompi subito, perché la voce è un tratto inconfondibile della persona umana. Il Creatore non si ripete nelle sue opere, attenzione, e neppure si trovano due glorificazioni identiche, capite che significa? Cioè, la gloria che speriamo ci avrò io in cielo, non ce l'ha nessuno. Il grado di gloria potrà essere lo stesso di altri, no? È come due esseri umani, sono uguali, ma la mano di uno è diversa dalla mano dell'altra. E quindi capite che in cielo siamo tutti quanti desiderati, perché io posso pure aver, come dire, conosciuto 500 beati e mi sono interpretato con 500 beati, rimangono 500 milioni però, per dire, tanto per fare qualche numero, non so quanti sono. E io sono attratto dagli altri 500 milioni perché so benissimo che saranno 500 milioni di godimenti differenti. E bellissimi tutti quanti. Ebbene, queste diverse beatitudini, riprendo la lettura, si trasformano trasmettono, si intercomunicano tra quelli che si salutano in modo celeste. E la cosa più meravigliosa, attenzione, è che ogni volta che si saluta una stessa persona, dice, vabbè, questa uomo la conosco, no, si ricevono nuove sfumature di felicità, già che la beatitudine non è azionaria, ma perfettibile dentro il grado di gloria raggiunta in proporzione geometrica, tensione fino all'infinito matematico, senza arrivare mai ovviamente a un panteismo. Nulla e nessuno può uguagliare l'eccelsa maestà del nostro Dio. Chiaro? Quindi io ho una mia fiammetta d'amore che me la incontro in paradiso. Saluto, qua la mano. Bello, esplosione di gioia. Poi la rivedo un giorno dopo, dico, vabbè, mo non la risaluto tanto. No, a qua la mano un'altra volta. Non era come l'altra volta precedente. Ma poi un'altra volta, quindi, che capite? Capite perché qui la beatitudine infinita del cielo è un pozzo senza fondo, inesauribile, è un continuo. Dice Riccardo, perché si sente piacere nel saluto di mano qui sulla terra ad una persona apprezzata? Ripete un po' la stessa cosa, sembra che gli avesse già chiesto. Comunque, con pazienza, Terramata risponde: questo piccolo piacere è come il gaudio incipiente, anticipato dall'istinto della gloria futura del saluto di mano abituale nella patria. Qui si condivide la gioia mediante il linguaggio, le attenzioni, i regali, sono i modi con cui noi, come dire, ci scambiamo l'amore, no? Tra umani. E invece nel cielo mediante la compenetrazione amorosa del saluto di mano celeste. Più facile, no? Come vedi, il cielo non consiste in una confusione diluente di beati, ma in piacevoli interrelazioni personali. E adesso allacciamo le cinture di sicurezza, perché dice Riccardo, ma se è affascinante il saluto di mano tra i beati, quanto più non lo sarà con nostro Signore Gesù Cristo, con la Madonna Santissima? Non vorresti dirmi qualcosa al riguardo? Perché ce lo daranno a stretta di mano Gesù e Maria? Che dite? Risponde Terramata. Sì, esiste un gaudio imparagonabilmente migliore del semplice saluto compenetrativo. L'interpenetrazione ineffabile con loro amorosissimamente, e attenzione, assolutamente totale, non solo la mano. Fusi. Fusi. Qui chi conosce un po' la divina volontà comincia a pensare alle fusioni che si fanno anche in questa vita, no? Ovviamente come atti di volontà non si possono godere questi diletti in questo mondo, no? E attenzione a quello che aggiunge però. La prima e la seconda aggiunta. Tuttavia, l'intensità di questi gaudi dipende dal grado di gloria meritato in questa vita. Buona Quaresima a tutti, figlioli miei cari. Ricordate che i santi, nessuno è così folle da voler tornare sulla terra. C'è solo un motivo che li fa desiderare di tornare sulla terra. Fare qualche penitenza in più, fare qualche digiuno in più, prendersi qualche croce di più, fare qualche atto di virtù in più per godere un po' di più di quello che stanno godendo in paradiso. Quindi fino a quando ci siamo, Io voglio bene, amici miei, siate intelligenti. Le cose sante, solo con le cose sante, vale il proverbio dei pagani peccatori viziosi che ogni lasciata è persa. Qua ogni lasciata è persa. Cioè, abbiamo solo questa vita per pronunciare, per procurarci un alto grado di gloria, non ce ne sta un altro. Cioè, tu stasera vai a dormire, tu che stai ascoltando la diretta, che hai fatto oggi? Cioè, quando facciamo un esame di coscienza, non guardiamo soltanto, sì, per carità, dobbiamo guardarli, i peccati che abbiamo fatto, le imperfezioni, i difetti, per carità, quello dobbiamo sempre tenere sotto controllo. Ma cioè, mi sono meritato un po' di paradiso oggi, ho fatto qualcosa di buono per l'amore del Signore, certo, imperfettissimo come lo facciamo tutti quanti, cioè, oggi è venerdì di Quaresima, non è obbligatorio il digiuno, il venerdì di Quaresima, ma io se fossi in voi, io lo farei, perché se sta appresa alle leggi della Chiesa, adesso sono diventate veramente estremamente miti. Un digiuno in più o in meno. Ragionate, è la stessa cosa dall'altra parte, ma assolutamente no. Assolutamente no. No, non lo è. E quando muoio, vediamo un po', fatevi un po' dei conti. Quanti digiuni ho fatto fino ad oggi? Boh, siamo in Quaresima, parliamo del digiuno. Uno? Mai? Tre? Dieci? Cento? Mille? 2000? 5.000? 10.000? 30.000? Quanti ne ho fatti? Guardate che il nostro Signore il conto ce l'ha, perfetto, e quando saremo morti, dopo il conto, tu hai fatto 3.476 digiuni, per esempio. Se uno fa il digiuno il mercoledì e il venerdì, per esempio, non è che ci vuole tanto, le settimane sono 52. L'ottava di Natale, l'ottava di Pasqua, non si fanno i digiuni, quindi 50 per 2 fa 100. Se so 10 anni che fai il digiuno a pane e acqua, sono 1.000 digiuni. Tanto per dire, fa un conto, no? Se so 30 anni che fai il digiuno a pane e acqua, sono 3.000 digiuni. Giusto? Quindi. Non c'è da stupirsi. E attenzione, la santa comunione sulla terra è un annuncio di quella del cielo. Attenzione, la santa comunione qui è un anticipo della compenetrazione con il nostro Signore Gesù Cristo celeste. È un anticipo perché nel mistero, nel sacramento. Ecco, le cellule di Gesù diventano le mie. Il sangue di Gesù diventa il mio. L'anima di Gesù è fusa con la mia quando faccio la comunione. La divinità sua mi abita, mi inabita al 100%. Sentire qualcosa dei diletti immensi che procura la Santa Comunione, bisogna imparare a farla bene. Bisogna avere una vita di intima comunione stabile, ordinaria con Gesù. Vedrai le comunioni che te fai. L'essere umano è stato creato, sentite, per ricevere l'infinita tenerezza divina. Siamo stati creati per questo. Naturalmente, senza sorta di panteismi, nirvana o cieli maomettani. Quindi, nirvana c'erano i buddisti, cieli maomettani li lasciamo perdere a loro. E il panteismo peggio ancora. Ma l'amore universale si realizza sempre con indicibile affetto. Soltanto l'uomo egoista, trincerato nella sua crosta di superbia, si rende incapace di percepire, perché qui si percepisce, non si vive, ma si percepisce la tenerezza universale. Si conforma con il maschilismo che supera in stoltezza l'istinto delle bestie. La Santa Comunione è un anticipo. Io ultimamente, in questi ultimi giorni, in più di qualche circostanza, l'altro ieri mattina, forse l'altro ieri, c'era una meditazione sulla Divina Volontà, parlava di questa cosa qui, ho anche alzato un pochino i toni, perché non è mica possibile che la comunione sacramentale adesso sia ridotta a profanazioni su profanazioni, oltraggi su oltraggi, e anche quel qualcuno che non profana e non fa oltraggi fa comunque delle comunioni pessime, non si ferma neanche un minuto a stare con il Signore, e a parte che si perde tutte quante queste cose, gli reca in misura minore, ma comunque oltraggio, e non diventa più santo, e perde un'occasione immensa di santificazione. Perché la comunione sacramentale non è soltanto un anticipo del godimento celeste, ma è anche quando è fruttuosa come dire, un input, una scalata in avanti nella santità. Riprende Riccardo, tua madre non mi vide già che nel traversare l'infuriata quasi inciampò con me. E Teneramata risponde: non ha fatto caso a te per la gioia di vedermi e per l'insolita tua presenza come viatore in questo paratempo. Diciamo, questo chi è? Come fa un viatore a stare in questo paratempo? Poi ci può stare perché ce l'ha portato per un miracolo, una concessione divina, Teneramata. Lui non avrebbe potuto stare lì dove stavano collocati in quel momento, no? Ma non ti avrebbe fatto del male. Semplicemente dovrebbe attraversarlo senza causarti alcun danno. E così vedrai che in cielo non occorre un regolamento di transito. Nonostante si tratti di un movimento universale assai complesso, a velocità incalcolabili e in tutte le dimensioni del cosmo, vedete? A velocità incalcolabili. Ho detto che sicuramente noi andremo più veloci della velocità della luce. Se no ci vogliono 100.000 anni per uscire dalla Via Lattea, eh? Cioè, la nostra mente, io non lo so, cioè, noi non potremmo concepire la velocità della luce, non la potremmo sostenere adesso. Cioè, la velocità della luce, io lo dico ai ragazzini, accendi la luce, poi conta fino a 1 e sappi che la lampadina che hai acceso in un secondo si è fatta 6 volte il giro della Terra, perché la circonferenza della Terra sono 50.000 km. E la luce viaggia 300.000 km al secondo. Cioè, capite 300.000 km al secondo? 6 volte il giro della Terra. In un secondo io posso andarmi in qualunque parte del mondo. I sogni che tutti quanti. Cioè, adesso voglio andare a New York, chiudo gli occhi e puff, sto già a New York. Adesso non è così, ma sarà così. Altro che New York. Voglio andare in un secondo, voglio trovarmi in un'altra galassia. Ci vai. In compagnia di quella mia fiamma d'amore, ci andiamo insieme. Chi lo sa se qualche santo potrà pure chiedere andarci in compagnia della Madonna e qualche altra galassia. Io ho qualche sospetto, insomma, però si sa mai, insomma, siamo a quello che dice Teneramata senza andare oltre, no? Quindi capite il traffico cosmico, però non c'è bisogno del codice della strada. Perché tanto se ti incontri, non ti scontri, ti attraversi, quindi non succede niente, non succede. Anzi, magari in quell'attraversare c'è pure un attimo qualche gradevole sensazione en passant. Io sorrido, amici cari, ma questo c'è scritto qui, eh? Ecco. Avreste bisogno di semafori di polizia, se ci dovesse essere. come dire, il regolamento di transito dice: no, non servono queste cose. Al posto loro noi contiamo sull'onnipotenza divina. Confidiamo assolutamente nel nostro Dio e posso dire, se imparassimo a fare un pochino di più pure noi, le cose andrebbero molto meglio. Ma molto, molto meglio. Perché nell'onnipotenza divina ci confida quasi nessuno. Ed è la più grossa cretinata che si possa fare. La più grossa. Perché quando uno comincia ad affidarsi un po' sul serio, ad abbandonarsi, rimani con due occhi spalancati grossi così. La sensazione è che non sembra vero, cioè, ma sarà una coincidenza, ma sarà un caso, perché purtroppo la nostra testolina è sempre uomini di poca fede, disse Gesù agli apostoli, no? Hai dubitato uomo di poca fede? Ma è un altro modo di campare, un altro, cioè, che non può essere messo in crisi da qualunque cosa esterna che accada, esterna o interna, malattie, morti, tumori, cataclismi, terremoti, disastri, crisi ecclesiali, pandemie vere o false, non te ne importa niente di niente. Se si confida sull'onnipotenza divina, quante volte ho detto alla Madonna, il più grosso complimento che il diavolo ha fatto alla Madonna durante l'esorcismo, sta scritto nel libro di Padre Bamonte, la Vergine Maria e il diavolo negli esorcisti. Padre Bamonte, attualmente il presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, allievo di Padre Amort, il più grosso complimento che ha fatto il diavolo alla Madonna è questo qui. Lei non ha avuto mai paura. Io non gli ho fatto mai paura, la paura in lei non c'era, ma perché non c'era? Perché lei confidava nell'Onnipotente. Per questo che l'angelo gli ha detto: il Signore è con te. Che dice San Paolo? Se Dio è con noi, ma chi sarà contro di noi? Ma che mi vogliono fare? Che mi fanno? Né morte, né vita, né presente, né futuro, né altezza, né profondità, zero, niente mi può separare da Dio. San Paolo questo lo scrive. Credo che sia lettera ai Romani, se non ricordo male. Dice, perché noi mortali non ci riusciamo? Dice Riccardo, ma ci scontriamo con gli ostacoli. Dice, ma perché siete ancora aviatori? Risponde Teneramata, facile, elementare Watson, no? Siete ancora aviatori, vivete in un regime di fede e non partecipate gloriosamente del potere divino. I beati partecipano dei poteri divini. Noi qui in piccolissima parte. Ma c'è un altro motivo. La grande malizia del mondo. Alcuni uomini aviatori commetterebbero delle atrocità se possedessero così grandi doni. Immaginatevi certi soggetti, no? Qui c'è la volontà umana. In paradiso la volontà umana non c'è più. Cioè, in paradiso regna la volontà divina. E tutte quante le volontà dei beati sono perfettamente all'unisono con quella divina. Non c'è pericolo. Ma qui immaginate se un pazzo gli metti in mano questi superpoteri, che cosa va a succedere? Hai ragione, dice Riccardo. Dio non dà ali agli scorpioni, cita un proverbio. Teneramata, se il solo sfiorarmi la mano con le dita mi produce molto benessere, ma che cosa avrei sentito se tua madre mi avesse attraversato? Il beato, risponde, può fare l'interpenetrazione gloriosa con amore o senza. Se la fa senza amore, come quando la mia mamma passò attraverso l'inferriata e i corpi delle persone sedute, non si produce il minimo piacere. Però, aggiungo io, non c'è neanche nessun dolore. Ma se lo fa con amore di carità, prova magnifici godimenti. Quanto è importante l'amore nel paradiso? Dice Riccardo. È decisivo. Risponde Teneramata. Ma non soltanto in cielo, ma sin dalla vita terrena. L'amore. Sin da qui si incomincia a notare il suo prezioso influsso. Dove c'è vero amore, amore di carità, abbonda sempre il gaudio. Qual è il secondo frutto dello Spirito Santo? Il primo qual è? L'amore, no? Ora studiamo un pochino di catechismo. Amore, gioia e pace. Stanno in ordine gerarchico, vengono uno dopo l'altro. Se c'è l'amore di carità, c'è sempre la gioia. Se la gioia sovrabbondante. Per questo che San Giovanni Bosco diceva che la felicità consiste, che la santità consiste nello stare molto allegri. Non l'allegria dei bivacconi, la stolta allegria la chiamava San Bernardo dei Mondani. Quella non è allegria, quello è stordimento, quello è altro. Ma la gioia profonda che traspare dalla nostra persona poi quando c'è. Le persone se ne accorgono se tu sei nella gioia oppure no. Ci deve essere l'amore di carità. Attenzione, l'amore di carità vuol dire che tu impazzisci l'amore di Dio e conseguentemente anche evidentemente in maniera subordinata e secondaria l'amore del prossimo e anche di santo amore di te stesso. Ho fatto recentemente una predica, era domenica scorsa forse, che c'era la prima lettura, amerai il prossimo tuo come te stesso, no? Adesso che abbiamo conosciuto cos'è la nostra anima, noi abbiamo il dovere di amarci santamente. L'amore di se stessi non è una cosa negativa, non è l'amor proprio, non è l'egoismo, non è che io mi vado a procacciare tutti quanti i piaceri e me ne infischio del prossimo, o mi vado a pensare solo alla panza mia e non mi importa niente di nessuno. Questo non è l'amore santo di se stessi, ma l'amore santo di se stessi è l'amore per la nostra anima. Il rispetto che dobbiamo avere anche nei confronti di noi stessi, sotto tutti i punti di vista. Allora, dove c'è amore di carità, dice Tenera Amata, c'è sempre, abbonda sempre il gaudio, anche se certe volte nei viatori chiaramente si mescola con le sofferenze proprio dello stato di prova, che è la vita mortale. Qui stiamo in prova. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, dice il Subtuum Presidium. Nostra sprecationes ne despicias in necessitatibus. Qui siamo nella prova. E quindi ci sono le sofferenze in questa vita. Ti spiego ancora di più. La mia mamma ed io abbiamo goduto moltissimo in questa compenetrazione. Tuttavia, c'è una grande varietà di forme e di sfumature. Attenzione. E così risolviamo anche il problema che qualcuno c'ha paura, dice, ma io non ci voglio andare in paradiso perché io ci ho sposato. C'ho la moglie, c'ho mio marito, a me mica sta tanto bene che qualcun altro si va a compenetrare con mia moglie e con mio marito. Per carità, pensiero comprensibile. Allora, qui c'è una grande varietà di forme e di sfumature. Per esempio, dice Tenera Amata, quando io e te ci compenetreremo gloriosamente, sposata lei in terra e sposato lui in terra, la nostra gioia a vicenda sarà immensamente maggiore, già che siamo stati designati dal nostro Dio per consumare piene interpenetrazioni celesti. Quindi, capite, parlerà più avanti Tenera Amata, dice, allora il matrimonio che cos'è? Perché qui su questa terra c'è il matrimonio? E tutte queste cose, se questi si erano fatti per l'uno per l'altro, sono stati pensati da Dio l'uno per l'altro, e sulla terra si sono visti quei 5 minuti che lei ha cantato la canzoncina della carriera, e basta. Non potevano sposarsi. Può farsi tante domande, siamo stati designati dal nostro Dio per consumare piene interpenetrazioni celesti. Non si tratta di matrimonio alla maniera della terra, qui comincio ad accennare qualcosa. È una cosa molto più elevata. È la sublime realizzazione dell'amore di carità al modo esultante dell'aldilà. Sapete che io dico subito qualcosa, il matrimonio, per quanto due sposi possano essere, che è molto raro, un matrimonio potrebbe essere una cosa veramente stupendissima se fosse tra due santi. Santi non vuol dire che non vivano come marito e moglie, ci sono stati dei santi tipo quello di cui porto il nome, che è, il mio secondo nome è Enrico, prima di Maria al battesimo. Sant'Enrico è stato un santo imperatore che ha fatto il matrimonio bianco con Santa Cunegonda. Erano marito e moglie, ma non sono mai stati insieme. Però ci sono stati tantissimi santi, pensiamo a Santa Giovanna Beretta Molla, per esempio, che sono stati coniugi. Per esempio, se uno si legge le lettere d'amore di Santa Giovanna Beretta Molla e di Pietro Molla, io quando lessi le lettere d'amore rimasi commosso. Ma quelli erano veramente due persone formate in altri tempi. Anche come dicevano la loro intimità, cioè quelli, Santa Giovanna Beretta Molla in 6 anni ha fatto 4 figli, ha fatto. E col quarto c'è morta, cioè. 6 anni, 4 figli. Cioè, tutte queste cose oggi sono completamente andate nel dimenticatoio, ma si attacca a parlare, però non abbiamo più, ma queste cose devono tornare, devono, e torneranno. E torneranno. Una coppia di santi, però, per quanto possano essere santi, c'è sempre una componente egoistica. È quasi ineluttabile fin quando siamo qui. Lì no. Cioè, l'amore di carità vuol dire che queste due persone, fatte l'una per l'altra, si danno a vicenda: ti do tutto e tu mi dai tutto. Quindi, in un incontro che poi produce esattamente diletto e godimento, ma non viziato neanche minimamente da niente che non sia amore, per quanto possiamo rappresentarcelo qui. Mi sembrò chiudere, Riccardo, e chiudiamo anche noi per oggi, sta sempre troppo presto il tempo con te nella nata, per quanto mi riguarda. Mi sembrò che di nuovo si accendeva la luce della mia mente. Incominciai a sentire senza comprendere la delicata ma forte provvidenza di Dio su ciascuno di noi. Sentivo che senza di essa il povero mortale andrebbe allo sbaraglio. Ebbi la chiara impressione che la mia resistenza a credere nella soave e vigorosa influenza di Dio su ogni uomo mortale era dovuta ad un sentimento di autosufficienza. Peccato gravissimo da confessare con sincero pentimento, infondata e unita ad una superbia sottilmente nascosta. Faccio da solo quel maschilismo rimproverato dalla mia bella maestra. Sapete che i maschi c'hanno? Uno è maschio, si può fare le cose da solo. Cioè, la prova dell'essere maschio è non mettere mai piede in chiesa, perché andare in chiesa è roba da donne, no? Questa è la mentalità proprio bacata dell'Occidente. È di debolezza, perché se tu c'hai bisogno di Dio e ti senti il prete, o se vuoi qui, è perché sei debole. Io invece che debole non sono come te, non c'ho bisogno di nessuno, né di Dio né della Chiesa, senti il prete né da queste cose qui. Questo è quello che si vede in giro, eh. Nei paesi non ve dico. Va bene, amici. Ci aggiorniamo la prossima volta, se Dio vuole, che Dio vi benedica e la Madonna sempre tutti vi protegga.